9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, lunedì 8 febbraio, da Oscar Giannino un buon inizio di settimana, e il tema di cui ci occupiamo oggi è stato il tema caldo per tutta la settimana precedente, la Fiat che di fronte alla esigua cifra appostata dal governo in questi giorni di riservata trattativa, che ancora non è stata formalizzata, sugli incentivi per il sostegno alla domanda nel 2010, la Fiat che risponde: beh, no, grazie, se si tratta di questo noi preferiamo veramente farne a meno. E pian piano nei giorni si capisce che in questa posizione c'è anche una orgogliosa rivendicazione da parte dell'azienda di Torino di avere a quel punto ancora più le mani libere per quello che riguarda gli stabilimenti nel nostro paese, che oramai fuori linea rispetto ai costi comparati alle altri siti produttivi dell'azienda, soprattutto a quelli del Brasile e della Polonia, dove si realizza il 90% in realtà del margine di Fiat Auto, fa capire che a quel punto avrà ancora le mani più libere l'azienda torinese per procedere alla loro ridefinizione, alla loro chiusura, nel caso di Termini Imerese, già annunciata per l'anno prossimo, e chissà, magari anche a rivedere nel prosieguo gli impegni che erano stati fatti balenare dall'amministratore delegato Sergio Marchionne per quello che riguarda invece la tenuta di Pomigliano attraverso il trasferimento della nuova Y10 dallo stabilimento di Ticchi in Polonia a Pomigliano alla fine dell'anno prossimo. Però chissà, in questo quadro magari senza incentivi si inizia a ragionare di fronte ai 600-700 euro ad ogni autoveicolo prodotto in Polonia di vantaggio per l'azienda torinese. Chi l'ha proprio davvero detto che quell'impegno fatto balenare da Marchionne alla fine dell'anno scorso, quindi in teoria solo poche settimane fa, possa continuare a valere per il futuro anche quando gli incentivi non valgono più? Abbiamo fatto diverse puntate, ve lo ricordo chi è in ascolto e magari ci ha seguito fedelmente, sul tema dell'effetto degli incentivi nell'anno scorso sull'auto, sull'economia italiana. Sono costati più o meno 1,2 miliardi di euro al contribuente, hanno consentito l'acquisto aggiuntivo, questa è la stima degli esperti di settore, di veicoli a basse emissioni per 650-680 mila unità, e quella è più o meno la stessa quantità di veicoli prodotti in Italia dai 5 stabilimenti Fiat. La polemica è naturalmente da parte dei sindacati e anche un po' da parte della politica nella constatazione che oramai la produzione di veicoli da parte della Fiat sul totale globale del suo prodotto automobilistico in Italia è poco concentrata in Italia, appunto 650 mila veicoli. La Fiat risponde però che bastano due conti comparati per fare capire come ci sia una ragione profonda perché quei veicoli siano solo 650 mila, visto che con molti meno addetto rispetto ai 22.500 operai dei 5 stabilimenti italiani, il totale dell'auto in Italia sono più o meno 30.000 persone nei 5 stabilimenti, ma le maestranze operaie sono 23.000, e beh, con molti meno di quegli addetti, anzi con un quarto di meno, si fa praticamente una produzione di poco inferiore in Polonia con ancor meno in Brasile si fa una produzione superiore, e quindi dice la Fiat: voi non potete pretendere che un'azienda che solo pochi anni fa tutti davano per morta all'arrivo di Marchionne, poi si rilancia, torna a fare utili, tutti dicono viva il miracolo di Sergio Marchionne, addirittura si candida poi con i denari del contribuente americano ad acquisire Fiat Chrysler, si proietta quindi da che c'era l'anno terribile proprio nel 2009 dell'auto mondiale con i cinesi che superano gli americani, e noi ci candidiamo proprio in quell'anno a una sfida globale, cioè a raggiungere 4,4-4,5 milioni di auto entro il triennio con Chrysler, e a proiettarci poi per successivi consolidamenti e tornando a fare utili su utili anche in America verso il traguardo dei 6 milioni di veicoli mondiali, e voi proprio mentre stiamo facendo questo, dice l'azienda, ci venite a contestare sul fatto che vogliamo tenere aperti gli stabilimenti laddove producono meglio, tanto rimane comunque italiana, dicono a Torino, rimane italiana perché la testa dell'azienda è italiana, perché il design è italiano, perché i motori e le trasmissioni più efficienti che portiamo anche in America sono italiane, quindi che paura avete? Però la risposta in Italia è naturalmente: come, che paura abbiamo? Lo stabilimento di Termini Imerese, che ricordo a tutti è stato aperto nel 1970, cioè tranne quello di Fiat Mirafiori e quelli acquisiti è il più antico oramai dei cinque in Italia,

a due tipi di ascoltatori. Primo, il cosiddetto mercato, perché il signor dottor Marchionne è uno che deve parlare ai famosi fondi di investimento che devono o non devono investire in Fiat, e quello fa muovere le azioni, perché non certo le fa muovere la famiglia. La famiglia si limita ad avere le azioni di un certo quantitativo, ma chi fa il mercato sono questi investitori internazionali essenzialmente finanziari. Ci hanno il difetto di non essere molto stabili. Pensano un giorno da una parte, un giorno dall'altra, si spostano alla ricerca di quello che chiamo lo short term gain, lei lo sa meglio di me, ecco, guadagno di breve periodo, dice che pure questo va bene, quindi va bene tutto, però è così. L'altro ascoltatore sono i governi, e quindi quando Marchionne parla mette all'asta la sua offerta di posti di lavoro, di mantenerli in uno dei tanti, una tante locations della Fiat. Cioè lei dice, chiunque ha, non lo fa mica solo lui. È un'asta competitiva, tutti. Le dice, cioè lui si offre al miglior offerente, chi gli offre di più di aiuti e incentivi? Ma lo fanno tutti, guardi l'affare Opel. Certo, certo. I famosi tedeschi, che sono genzerissimi, si ricorda, ai limiti del vaudeville è stato, veramente. Non parliamo di quello che ha combinato il governo americano. Altro che. Appunto, quindi quando abbiamo una situazione di oligopolio nella produzione e di governi coinvolti fino al collo da quando, diciamo, da 50 anni, per la Fiat è molto di più, ma anche per la General Motors, però per uno giovane come un produttore che può stare in Polonia, giustamente meno. Comunque coinvolti fino al collo, mi sa dire di il mercato che c'entra, quando poi, come lei bene ha ripetuto, con gli incentivi si riesce a far muovere un mercato che è fatto solamente di sostituzione ormai nei paesi più sviluppati. Certo. Perciò è pericolosa la Cina, perché lì è un mercato di prima automobilizzazione, lì si fanno veramente, se si può, dei guadagni giganteschi, l'India, questi posti qui. Ma noi invece abbiamo gente che ci deve convincere che la mia automobile, che grazie a Dio è una macchina vecchia che si chiama Lancia e c'ha perlomeno 11 anni, non va bene. È difficile dirmelo dal punto di vista meccanico, l'hanno fatta loro, sanno che va benissimo, eppure mi devono dire che questa è una macchina superata. È difficile dirlo, farlo credere alla gente. Professore, su questa impostazione di realismo nell'osservazione dell'interazione del settore auto tra governi e produttori, la conclusione che mi pare di intendere implicita è che quindi a sbagliare è più il governo della Fiat, cioè forse bisognerebbe darglieli questi incentivi, anzi dargliene pure parecchi, se vogliamo difendere gli stabilimenti. E questo è sottinteso? Ma la cosa è talmente complicata che è difficilissimo sapere quali sono le contropartite da chiedere, atteso che tutti danno soldi, e allora a chi bisogna darli, a chi garantisce che cosa? Perché lei ha detto benissimo, abbiamo sbagliato a proteggere un solo produttore, quando si doveva ammettere gli altri qui non lo si è fatto e abbiamo fatto terra bruciata, e questo è quello che fa un monopolista quando difende il monopolio, e il governo ci è cascato e ha fatto un errore gravissimo. A questo punto però ci troviamo con delle situazioni pregresse, per esempio quelle di Termini, e così anche probabilmente a Torino bisognava cominciare a rifasare, ridurre, ma tanto tempo fa, in maniera ordinata, ma questo ordine non ce l'aveva né il governo italiano né la gestione Fiat, che io sono un paesano di Marchionne, quindi tendo a guardarlo con un occhio benevolo, però fino a quando è arrivato lui la gestione Fiat è stata la cosa. Ah no, era se meglio vogliamo entrare perdere nel cosiddetto modello piemontese delle commesse, è meglio lasciare perdere, sì, se no probabilmente ci rimediamo pure qualche querela. Sono completamente d'accordo. Quadro per gli ascoltatori, poi chiediamo a Nicola Porro cosa ne pensa. Quadro per gli ascoltatori del rinnovo più o meno deciso degli incentivi nei diversi paesi europei per quello che riguarda l'auto, perché l'Europa anche nell'auto, a cominciare dall'auto anzi, nella crisi non ha dato alcuna risposta coordinata, non c'è proprio verso di convincere l'Europa di essere un vero mercato. C'è una moneta comune, i mercati restano differenti. E quindi i governi cosa hanno fatto? Di fronte alla crisi hanno messo mano al portafoglio, ciascuno secondo i margini di indebitamento che poteva contare di avere, e ciascuno in concorrenza contro l'altro, perché poi questo è il punto di fondo. Quindi nella Germania nessun rinnovo per gli incentivi auto nel 2010, sono stati dati 5 miliardi di euro, quindi tantissimi rispetto all'Italia. Nel 2009 c'è stato un balzo clamoroso delle vendite, il governo adesso ha chiuso i rubinetti. In Gran Bretagna gli incentivi durano fino a marzo di quest'anno, non dovrebbero essere prorogati, ma vi direi di non scommetterci troppo sopra perché ci sono le elezioni. In Lussemburgo, per quello che conto, proroga sino a maggio. In Francia invece la proroga c'è, anche se i bonus sono ridotti rispetto a quelli del 2009. Ridotti significa che ridotti più o meno di un terzo, invece che 1000 euro più o meno 700 euro, che poi diventano 500 e via via a scalare alla fine dell'anno. In Spagna scadono a ottobre 2010, quindi il calendario è molto diversificato e i termini sono molto diversificati perché dipendono dal deficit di ciascun paese. Nicola Porro, rispetto al realismo del professor De Cecco, lei che pensa? Ti vorrei essere ancora più realista, perché quando si parla della Fiat in realtà si parla di problemi che nascono, come avete detto bene, da 50 anni, sono problemi complessissimi e quindi si rischia di perdere, secondo me, un pochino la concretezza che può sembrare banale. E questa è appunto banale, cioè è necessario oggi impiegare 780 milioni, non è una cifra a caso quello che dico, ma è la somma di quanto metterà Regione e Stato per tenere un impianto come quello di Termini Imerese comunque industrialmente funzionante in Sicilia? Io a questa domanda rispondo no. Cioè, secondo me, oggi noi stiamo mettendo le basi per commettere gli stessi errori che sono stati commessi 20, 30, 40 anni fa, quando nel 70 si pensava di imporre l'industrializzazione al sud, i fini erano buoni, ottimi, straordinari, si pensava di rendere meravigliosamente industriale il sud, non ci si è riusciti, e oggi si continua a pensare con i soldi dei contribuenti a perpetrare quell'errore. Adesso che sia Fiat o non sia Fiat, oggi c'è un primo grande problema, e cioè che il governo si interroga su come risolve il problema di Termini Imerese. Io sarò brutale su questo, perché se no ci prendiamo tutti per i fondelli. Con 800 milioni di euro, invece che salvare 1800 famiglie, che si salvano con gli strumenti ordinari della cassa integrazione, oppure con un'assistenza che si dia immediatamente alle famiglie che perderanno il lavoro a Termini Imerese, con 800 milioni si riduce l'IRAP o si aumentano le franchigie per l'IRAP per tutte le microimprese italiane. Non lo dico in termini demagogici, lo dico perché le scelte di politica economica non sono scelte in assoluto, vorremmo tutti star bene, vorremmo che tutte le industrie funzionassero, vorremmo che tutti vendessero, e però si devono fare delle scelte. Perché rottamiamo le auto e non i vestiti? Perché pensiamo che le auto abbiano un peso maggiore sul PIL italiano. Perché aiutiamo la Fiat e non la Merloni degli elettrodomestici, o meglio, la aiutiamo più la Fiat perché pensiamo che la Fiat abbia più chance di successo nel futuro. Quindi la scelta di politica economica è semplicissima: siccome abbiamo pochi soldi e i contribuenti non possono pagare una lira più di tasse, bisogna stare molto attenti come si spende questi quattrini. Spendere 800 milioni per tenere Termini Imerese è una roba che fa gridare vendetta. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, e poi veramente mi taccio, è riguardo agli incentivi. Ha ragione il professor De Cecco a dire una cosa che ci dimentichiamo sempre: siccome le auto oggi si comprano per sostituzione e non per primo acquisto, per il 90% dei casi, e siccome stiamo inventandoci anche dei temi, diciamo, ecologici, o stiamo ingrandendoli proprio per sostituire le auto, direi ingrandendoli, sono d'accordo. E l'arancia di 11 anni fa del professor De Cecco, magari usata poco, oggi viene vista come una specie di mostro inquinante. Probabilmente non lo è, ma comunque questo è un buon motivo per cambiarla oggi. Però voglio dire, siccome il tema è la sostituzione delle auto, e dobbiamo stare un pochino attenti, perché gli incentivi in realtà sono, e per questo anche questa è una banalità, una droga al mercato che nasce proprio dal fatto che non si non si amplia il mercato, ma si dà un pochino di sollievo al mercato. Quindi gli incentivi quest'anno, e concludo, sarebbero anche paradossalmente meno efficaci in Italia come in Europa, perché probabilmente molte delle scelte di sostituzione sono state fatte, e comunque se anche funzionassero quest'anno gli incentivi, arriverebbe a un punto di talmente tante auto sostituite, dunque incentivate, che si avrebbe un buco nelle vendite in Italia fra un anno e mezzo, fra due anni, cioè è soltanto un sistema molto demagogico per portare in avanti il problema. Una persona seria come Marchionne questa cosa la sa benissimo, quindi gli incentivi possono essere utili per sanare un problema di grandissimo caos come era quello dell'anno scorso, ma sa che nel medio periodo non servono a nulla, posticipano il problema, come è avvenuto puntualmente tutte le volte che gli incentivi hanno dato degli utili fittizi alla Fiat, mi ricordo la gestione Renzi, in cui fecero, mi sembra, 3.000 miliardi di utili, totalmente inutili, perché dopo due anni ovviamente la Fiat andò in pessima condizione. Perfetto, allora le comunicazioni pubblicitarie, poi torniamo con l'opinione di Marco Ferrante e di voi ascoltatori. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, il caso Fiat, gli stabilimenti, gli incentivi che la Fiat non vuole più perché sono pochi e il governo che comunque non può che darne pochi, tutte le polemiche aperte. Iniziamo con gli ascoltatori e poi abbiamo l'opinione di Marco Ferrante. Cominciamo con Nicola da Napoli. Prego Nicola. Buongiorno dottor Giannino. Buongiorno. Complimenti per la sua trasmissione che la seguo tutte le mattine. Andiamo. Allora, io sono un ex dipendente Alfa Romeo. La cosa più sconcertante, sentire una persona come Luca Cordero di Montezemolo dice che in questi ultimi anni la Fiat non ha percepito neanche una lira. Da una persona come lui non mi sarei mai aspettato. La Fiat ha sempre preso soldi più di qualsiasi altra azienda in Italia. Hanno distrutto l'Alfa Romeo, che era un'azienda che era un fiore all'occhiello. L'Alfa Romeo oggi l'hanno distrutta completamente, senza sfruttare un minimo della tecnologia. Pronto? Sì, noi stiamo ascoltando. Naturalmente è chiaro come la pensa, per così dire. Quindi cosa bisognerebbe fare secondo lei? Per me, se la Fiat vuole andare via, che vada via dall'Italia. Vuole andare via, vada via. Ecco. Ma non possiamo spendere e mantenere continuamente noi contribuenti, dare soldi e poi ogni tanto, ma noi andiamo via. Ormai è già andata via tra Polonia, Brasile, Argentina, adesso aprono stabilimenti di Cosovare, in Italia cosa rimane? Il cervello secondo loro. Ma io sono grazie. Molto scettico. Grazie Nicola, sentiamo Francesco da Salerno. Buongiorno dottor Giannino. Sì. Buongiorno a lei. Senta, un paio di cose molto veloci volevo dire. Prima di tutto, appunto, è una menzogna quella che dice Montezemolo, perché sappiamo bene che per anni, mentre noi eravamo impegnati nei giorni finali dell'anno a mangiare panettoni e quant'altro, il governo stanziava soldi su soldi, insomma, l'ha fatto per 20 anni, forse 30, chissà quanti. Quindi diciamo che sarebbe veramente assurdo dire il contrario. Tra l'altro, però, io dico anche questo. Pensare che una SPA, con le sue logiche ferre, dovendo rispondere agli azionisti e voglio dire avendo una sola logica, quella del denaro, pensare che per riconoscenza a quelle che sono fatte in passato mantengano è un po' un'illusione, no? Dice lei, insomma, le società non è che fanno i conti, i bilanci con le generosità e con le riconoscenze. Esattamente. Guardi, io lavoro per una SPA e devo dire che le logiche sono veramente, voglio dire, inumane. Come lei potrà sono bene. Inumane, sono quelle dell'utile, con l'utile delle aziende, con l'utile delle aziende si fa il bene pubblico. Va bene tutto, va bene che la radio di Confindustria è diventata quella in cui, a differenza delle altre che stanno bene attenti a non mandare in onda telefonate in cui si dice alla Fiat che mentono, noi lo facciamo, però adesso non arriviamo al punto pure di dire che se le società perseguono l'utile è una cosa disumana, perché con quello si fa il bene pubblico. Comunque l'ho interrotta, mi scusi. Però mi concede una cosa. Certo. Se questi soldi fossero serviti a mantenere la Fiat su altissimi livelli di mercato, di produzione sì. E quant'altro, allora sono serviti semplicemente, a pensare male, come diceva Andreotti, si fa peccato, ma forse non si sbaglia, forse lui che lo diceva, forse qualcun sì, altro. Sì, no, lui. Cioè, lui. Era lui, voglio dire, mi sa che qualcuno si è arricchito. No, visto che la Fiat ha fatto delle auto, io sono stato schiavo, voglio dire, di una Fiat 126 bis, la mia prima auto da ragazzino, che vuol dire che il motore fondeva ogni tre secondi. Insomma, vuol dire ha avuto chiaro Francesco, lei dice non so, da una parte la società non si può chiedere che siano riconoscenti, però dall'altra noi con questa lunghissima storia di sussidi, contributi, aiuti alla Fiat, difesa come unico produttore del nostro mercato, l'abbiamo incoraggiata ad avere andamenti molto altalenanti, tanto ci pensava Pantalone e loro si potevano permettere anche di fare ricorrenti gravissimi errori industriali e di conto economico, e questa è la storia della Fiat, della verità, anche secondo me, anche se si è sempre rimessa in piedi, poi alla fine arrivano i Marchionne alla Fiat. Questi sono i veri miracoli dell'imprevedibile. Giacomo da Messina, prego Giacomo. Sì, sa, Salve, buongiorno. Io penso che la Fiat in ogni caso è stato giusto difenderla negli anni perché è un patrimonio di tecnologie, di know-how, di competenza nel manifatturiero che ha aiutato anche lo sviluppo di tante altre piccole e medie imprese, non solo quelle dell'indotto, ma in generale proprio. Ma adesso che bisogna fare? Ma adesso, siccome si parla sempre degli incentivi, ma non si parla di finanziamenti avuti dalla Fiat in termini di progetti di ricerca e sviluppo, cioè parlo di tutti i finanziamenti che dà il Ministero dello Sviluppo Economico, della Ricerca, bravo, al Centro Giacomo. Ricerche FIAT. Bravo Giacomo. Quindi, siccome delocalizzare uno stabilimento può essere improduttivo dal punto di vista economico, perché costa 1.000 euro in più a vettura produrlo in Sicilia, dico, tutti i soldi e i finanziamenti che sono stati presi negli anni, e penso anche negli ultimi, vorrei vedere i conti, vi daremo attenzione a guardarli, anche da quando è presidente lui, finanziamenti di ricerca e sviluppo, portare il centro di ricerca Fiat in Sicilia. Bravo. Visto. Giacomo, questa è un'opinione, questa è una proposta concreta suffragata da stanziamenti in conto economico. Qualche giornale in effetti ha visto che anche solo nell'ultimo bilancio sono 20 milioni appostati su cose di questo genere. Non stiamo parlando di cifre stratosferiche, ma comunque stiamo parlando di un flusso continuativo nell'ambito dei contributi conto economico per ricerca alle aziende. Beatrice da Milano, prego Beatrice. Buongiorno, volevo fare una riflessione su Alitalia e Fiat, cioè stiamo discutendo di possibili aiuti alla Fiat quando Alitalia ha ricevuto aiuti per tantissimi anni e anche nella privatizzazione ha ricevuto tantissimi aiuti dal governo, quindi non riesco a capire perché adesso ci si scandalizzi così tanto, quindi, per la Fiat. E questo lo capisco perché è giustissimo, allora lei dice bisogna darglieli. Beh, diciamo che comunque bisogna darli o comunque bisogna discutere sotto un altro punto di vista, cioè non come se fosse quella cosa così incredibile e così insensata. No, no, il governo no, dovrebbe mantenere una coerenza. Ma io non sto polemizzando, è solo per far capire meglio come la pensa Beatrice, perché certo. Se lei mi fa il precedente di Alitalia e dice guardate che lì aiuti pubblici, mamma mia, in termini incredibili, e però abbiamo o comunque si è inteso difendere l'italianità della compagnia e almeno un certo livello di occupati rispetto al fatto che si rischiava che andasse tutto per aria e lo si è ottenuto. Le chiedo, il risultato analogo dovrebbe essere, senza scandalizzarsi quindi sui contributi, visto che lo si è dato anche ad altri, dovrebbe essere finalizzato a dire questi sono i contributi ma tu mi tieni aperti gli stabilimenti, oppure questi sono i contributi perché sei un patrimonio nazionale sugli stabilimenti, insomma vediamo, perché ci interessa che tu sia forte nel mondo più che difendere Termini. Lei su questo punto non ho capito come la pensa. Credo che a quel punto sarebbe forse il primo, cioè questi sono i contributi, o il secondo non ricordo, questi sono i contributi, fai quello che vuoi, però difendiamo l'italianità. Intendo dire, io non la vedo così come non vedevo così le scelte di Alitalia del governo, però per coerenza dovrebbe comportarsi nello stesso modo. Grazie Beatrice da Milano. Allora Marco Ferrante, osservatore molto attento dell'epoca marchionne della Fiat, mettiamoci nei panni di questo amministratore delegato. Dal suo punto di vista, Marchionne sa perfettamente che gli italiani pensano a maggioranza quello che queste casuali telefonate hanno mandato in onda, cioè pensano che la Fiat sbaglia di non aver ricevuto soldi, pensano che si è fatto bene a difenderla, però adesso se chiude si incacchiano perché dicono allora vattene. E come la pensa Marchionne secondo lei di queste cose? Io penso che Marchionne la pensi un po' come lei. Cioè credo che chi dica tutto sommato questa è un'occasione per sciogliere questo legame, al fondo che questa sia la sua convinzione prevalente, anche perché poi lui viene da una cultura di impresa americana, cioè da un sistema più di mercato, ancorché oggi voglio dire parlare di mercato nel settore automobilistico è un po' complesso perché la crisi ha abbattuto soprattutto l'industria dell'auto, no? E quindi io credo che veramente ci sia, come possiamo dire, allo studio l'idea di ragionare sul serio sull'uscita dagli incentivi. Questo è paradossale se ci pensiamo, no? Perché il legame incestuoso e la politica che vuole mantenerlo, la politica peraltro un governo liberale, è più un governo liberale che vuole mantenerlo che non l'impresa beneficiaria. Ciò premesso, su quello che poi invece ragionevolmente potrebbe succedere, ha un po' ragione De Cecco, cioè alla fine, voglio dire, la situazione è tale che ragionevolmente gli incentivi, proprio a causa della crisi, dell'assenza di coordinamento nelle politiche comunitarie, alla fine un po' di incentivi bisognerà mantenerli. Poi bisogna ricordarsi anche che lì c'è il caso di tutte quelle di tutti quei produttori, quelli di fascia alta, che non vogliono gli incentivi ma vogliono deduzioni fiscali più alte per i leasing. Insomma, ci sarà molto da ragionare tecnicamente sulle formule da trovare. Dopodiché, finita la fase dell'emergenza, bisogna capire, cioè, diciamo, quando un pochino gli effetti della crisi globale si attenueranno, bisogna capire effettivamente verso che cosa bisogna andare. E qui è interessante anche capire che cosa pensa la Fiat. La sensazione che si ha è che la Fiat sia più interessata a uscire, naturalmente, che a restare, questo è chiaro. Cioè, lo scambio è fine degli incentivi, libertà sugli stabilimenti, su questo ha ragione lei. E mi sembra che il caso di Termini sia esplicito in questo senso, no? non c'è nessun infingimento. Questo dal punto di vista della Fiat. Poi dobbiamo capire dal punto di vista dello Stato, dal punto di vista delle scelte politiche. Io credo che finita la crisi bisognerebbe cercare di, a ragione Porro, uscire definitivamente dall'assistenzialismo alle imprese. Quei 780 milioni destinati a Termini sono un assurdo, e per fare che cosa non si capisce, perché per fare una specie di Cinecittà siciliana non si capisce bene, c'è molta confusione sulle scelte da prendere. No, bisogna uscire da questo tipo di assistenzialismo e puntare, è vero, a un sistema di attrazione fiscale più interessante, più significativo, più sexy per gli investitori stranieri. Benissimo, allora ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi secondo giro conclusivo, ricominciando il professor De Cecco e i nostri altri due ospiti, Ferrante e Porro. Intorno a due domande secche: qual è lo scenario per l'ultimo anno per elezioni del governo? Se si chiude Pomigliano la campagna esplode. Secondo, ma non è meglio, appunto, risparmiare tutto questo e invece fare dei begli ammortizzatori sociali per difendere i lavoratori nel libero mercato aperto, piuttosto che nelle stabilimenti come erano e dove erano a costruire, tenerli aperti e produttivi e fargli perdere altri soldi? Queste due domande a tra poco, intanto circolazione stradale. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, intanto il ministro Scajola, mentre noi facciamo la prima parte della nostra trasmissione in televisione, ha quantificato in 270 milioni di euro i denari ricevuti dal gruppo automobilistico per la ricerca e gli investimenti, quei denari di cui ci parlava i nostri ascoltatori prima, e ha confermato che vi sarebbero 8, 9, 10 offerte addirittura per una riqualificazione di Termini Imerese fuori dall'auto. Il 5 marzo inizia l'esame di queste offerte. Oggi trovate un'intervista al Corriere della Sera di Rinaldini, segretario della FIOM CGI, che dice: il governo ha perso troppo tempo, sono da mesi che noi abbiamo, in realtà stiamo aiutando la Fiat a farci trovare di fronte alle cose fatte. Allora, professor De Cecco, se lo immagina il governo Berlusconi con l'ultimo anno, con Pomigliano che chiude, la campagna che esplode, lei che pensa? Ma queste sono domande per giornalisti politici, non allora, per lei professori di economia. Per lei solo la seconda. Posso solo dire che io nel 97 ho scritto un articolo durissimo contro gli incentivi che faceva il governo Prodi, di cui ero amico. Quindi questa è la mia opinione sugli incentivi e non l'ho cambiata affatto. Però le volevo esprimere la prima volta la difficoltà di capirci qualcosa in un mondo in cui tutto è falsato e i costi di produzione sono per la metà politici, come lei sta dicendo proprio adesso, e per l'altra metà industriali. La campagna che esplode, le posso anche dire che può esplodere pure l'Abruzzo, da cui io vengo, perché lì c'è una ditta che si chiama Sevel che fa quella pare che la tengano aperta, però quella però pare che la tengano aperta per quanto vogliano ridurre gli stabilimenti produttivi, però quello, se ho capito bene, da uno solo, comunque quello era una storia di successo incredibile fino al crollo della domanda, perché quella è andata da 1000 dipendenti a 6000, che la Fiat, secondo nemmeno nessun altro tranne i cinesi, ne ha mai fatto, perché andavano benissimo in tutta l'Europa, sono il polso della congiuntura, perché sono comprati da piccoli imprenditori eccetera, certo. E questo è crollato, proprio non c'è la domanda, capito? E questo è un problema che io infatti il polso dell'economia europea lo sento dal mio paese. Vado là e dico, che fate? Ha riaperta, fatto. Se non riapre quello, vuol dire che l'economia europea non va che bene. La domanda non è ripartita. Lei preferirebbe un sistema di welfare che tutela i lavoratori a prescindere dagli stabilimenti in cui lavoravano, o continua a pensare che in realtà tenerli anche è una forma di radicamento in un'impresa altrimenti troppo globale, e che sceglie per costi politici e non solo per costi comparati dal bilancio? Il professor Marshall, che scriveva negli anni 80 del secolo dell'Ottocento, che diceva che c'è l'atmosfera industriale che si crea, ci sono le economie esterne, cioè lei crea per esempio una classe di lavoratori capaci di lavorare, capaci di capire questo tipo di attività, e se le vuol mantenere, se pensa che ci sia un futuro industriale tout court, deve mantenere un'atmosfera industriale, come per esempio c'è a Torino. Se lei mette una fabbrica a Termini Imerese, deve importare quasi tutto, perché lì non si è creata l'atmosfera industriale, perché una sola cosa era poco. E poi la Fiat non ce l'aveva proprio lo stile di avere delle commesse fatte lì intorno. Vicino a quella del mio paese c'è una fabbrica Honda che ha creato 100 sottofornitori. Perché? Perché è giapponese e non è la padrona del territorio. Ecco, deve fare degli alleati. Ma lei sta cogliendo un punto essenziale. Io a questo punto giro a Nicola Porro, perché in gran parte l'obiezione che viene fatta su Termini Imerese di fronte al fatto che l'azienda dice qui sì, i costi sono fuori controllo in termini comparati, è quella di rimproverare la Fiat dal 1970 a oggi, essa di non aver saputo, voluto forse, perché il professor De Cecco ci sta spiegando perché può convenire o non convenire fare indotto localmente. Chi non si considera padrone deve farsi alleati e quindi semina indotto. Chi invece si considera padrone di un destino a livello nazionale, globale, cioè ha un rapporto con la politica influente come azienda titolare dell'unica posizione forte nel mercato della produzione automobilistica in Italia, ragiona, ma a me qui non, perché mi dovrebbe convenire? L'indotto a Termini, chi ha ragione? Ha ragione l'azienda o ha ragione chi dice non l'avete fatto, col sottinteso di De Cecco che ci spiegava adesso? Domanda per Porro, sì. Pronto? Nicola? Non c'è più Nicola Porro. Pronto? Mi senti, Nicola? Sì, pronto. Ci sono due Fiat secondo me, quella prima, cioè secondo me, ma secondo probabilmente tutti, la Fiat di mercato, che è quella di Marchionne, e la Fiat, diciamo, prima di Marchionne. Evidentemente c'è una cesura tra le due Fiat. La Fiat precedente evidentemente si ragionava in termini, tra virgolette, politici, o comunque, se preferite, che più nobile, di politica industriale. Quindi se c'erano risorse da andare a catturare in qualche regione, ci provava. Anche a Melfi ci ha provato ed è riuscita, perché intorno a quella Fiat si è creato un indotto. In realtà in Sicilia ci ha provato e non gli è andata bene. È una logica che però oggi è completamente fuori, ma completamente voglio dire avulsa dal management attuale della Fiat, che non ragiona più in questi termini. Quindi è per quello che noi creiamo sempre un po' di confusione, perché parliamo di una Fiat che conosciamo dal passato, ma la Fiat di oggi è completamente diversa. Direi Marchionne. Quando Marchionne va dai sindacati a Palazzo Chigi il 22 dicembre di quest'anno, ma parla come, bisogna leggerselo su internet il suo discorso che ha reso pubblico, non è che a mezzi termini dice che la Fiat ha aiuti dello Stato, lo ha detto tra l'altro due mesi prima della battuta di Montezemolo, lo ha scritto lui in un documento lasciato a Palazzo Chigi, ma con la stessa identica trasparenza dice, guardate signori, che se a Pomigliano d'Arco voi non riusciamo esatto. a sfruttare i macchinari a pieno regime e noi chiudiamo. Adesso non lo dice così esplicitamente, ma lo fa capire chiaramente dal suo discorso su Termini Imerese, sempre in quel 22 dicembre a Palazzo Chigi davanti ai sindacati. Immaginatevi voi un vecchio manager della Fiat siete davanti ai sindacati e al governo parla così chiaramente. Beh, Marchionne dice Termini Imerese si chiude, punto. Il tema non è se c'è indotto, non c'è indotto, il tema è che io non posso sopportare 1000 euro in più per macchina, perché vuol dire mandare a quel paese tutta la Fiat. Chiarissimo, chiarissimo. Io sono moltissimo d'accordo, lo ammetto, il realismo del professor De Cecco, che è un maestro per tutti noi, è un richiamo a tenere i piedi per terra, soprattutto su ciò che nei bilanci dei grandi gruppi industriali di tutto il mondo non c'è scritto. E naturalmente poi, rispetto a una lunga storia da sciogliere, secondo me bisogna, io almeno la penso come Nicola Porro. Però a Ferrante chiedo, alla fine della fiera, siccome il realismo ci insegna che poi la Fiat potrebbe essersi dotato del poliziotto cattivo, quello efficiente, ma cattivo nel linguaggio, nello stile, ipermanageriale, perché c'è una sfida mondiale. Dall'altra però tenere, come ha sempre fatto, anche un canale attento. Lei mi pareva di capire che le dicesse, ma insomma vedrete che questi incentivi poi alla fine saltano fuori, saranno ridotti, però la logica ci induce a pensare a questo. In definitiva, non è solo dal poliziotto cattivo, cioè quello efficiente, che dipende poi il futuro vero della FIA, cioè la sfera mondiale, piuttosto che dall'attenzione tradizionale verso la politica italiana? Sì, sì, su questo ha perfettamente ragione, così, cioè la situazione globale, diciamo, i sindacati rimproverano a Marchionne di aver cambiato idea su Termini. È vero che Marchionne ha cambiato idea su Termini, ma ha cambiato idea su Termini perché nel frattempo c'è stata la più grande crisi economica da 80 anni a oggi. È evidente che secondo me non c'è un nesso diretto tra il destino di Termini e l'acquisto di Chrysler, però è evidente che c'è una conseguenza diretta della crisi su Termini, perché Termini è l'anello debole della produzione industriale Fiat. In tutto il mondo si deve ridurre la capacità produttiva, intorno, diciamo, tra il 20 e il 30%, in Italia per ora tocca a Termini. Cioè, non mi sembra una cosa così terribile, e non, è ovvio che è una cosa terribile dal punto di vista dell'occupazione, ma dal punto di vista, come possiamo dire, appunto, del guardare in faccia la realtà, abituarci che il mondo non è più quello di una volta, questo dobbiamo farlo. Io vi dico un piccolo dato su Termini a proposito della questione dell'indotto. All'inizio degli anni 70 c'erano molti altri grandi gruppi che si stabiliscono lì, da Sid Siemens a Chimica Mediterranea, Raytheon Elsie, Safim. Alla fine è successo che questi se ne sono andati tutti, probabilmente perché c'erano effettivamente delle difficoltà ambientali che erano insormontabili per la maggior parte di queste grandi imprese. Allora, se poi a un certo punto si decide di guardare in faccia la realtà e di dire guardate, questa situazione è insostenibile, è una cosa triste, amara per un certo numero di famiglie incolpevoli, ma d'altra parte voglio dire, questa è alla fine l'economia globale, quello che secondo me noi dobbiamo sforzarci di imparare e dare risposte politiche più generali e naturalmente che stiano calate nella realtà di un sistema economico interconnesso. Perfetto, grazie a Ferrante, grazie a Nicola Porro, grazie al professor Di Cecco. Alle agenzie battono una novità: Toyota estenderà i richiami di auto ibride SAI e Lexus, non solo delle Prius, e su questo ci vorrebbe una vera puntata, perché la mazzata dell'amministrazione americana sul sistema frenante della Prius, cioè l'ibrido di successo al mondo, e voi sapete che proprio il sistema frenante è quello decisivo per far intervenire il motore elettrico su quello a combustione, anche lì a me sa larghissimamente l'intervento della politica per tutelare i propri produttori nazionali, tutto il mondo e paese. Ora linea giornale radio, appuntamento a domani. Radio 24, la passione si sente.